così sto, non posso farci niente. Bene, c'era caldo e oggi c'è un po' di temperatura panna più bassa. Sì, ma fredda fredda perché era sì, un po' di aria fredda, però non era fredda fredda. No, stamattina quando sono sceso con lui stava piovendo e più c'era aria calda anche. Bene, un po'. Cazzo gli abbarriava acqua e vento, cazzo. Ma così, tutto un tratto. Cazzo, te lo dici, cazzo, abbassare anche Staffarelli, sala, tutti i vetri bagnati, cazzo. Buongiorno. Te l'ho detto io, stai attento che ci metti a piovere. E infatti, a fattere. L'ha messa da fare entro di notte e poi ce l'ha fatta a mangiare. Ah, non aspettavo, ho visto che c'era l'aria un po' sopra la parte di Alghero. Ah, non aspettavo che per i cimitiali così. Siamo stati dentro, no, per far a mangiare. 5 minuti e c'era un diluvio. Ah, infatti. Si è fatto un diluvio, ha fatto. Sì, va bene. Ce la teniamo com'è. Sì, adesso passate, siamo tranquilli. Per ribarriata qua. E poco fa stava di nuovo fiorentinando, però non era forse come stava a ogni tanto mi puoi una rega a un poco e poi anche imbarriata mi ha dato. Sì, vabbè, pazienza, ce la prendiamo, vuol dire. Domani è bello, sembra, no? Parliamo, ha messo tra nuvole e sole, ha messo. Però pioggia non ne ha messo da queste parti. Sarà basso di gendere da pure. Non so, anche a quella parte stanno fette, diciamo, per quello va. Ma mi siete che ci abbassi, non mantenerevo, non mantenere. Dopo, a non fare il discorso, fai lì la Sicilia, a secco. Si secco è lì. Ma se vuoi dire al trecca, ne vuoi va nulla, non vuoi va, eccolo già. Non voglio far nulla, anche se no che la piana un dareva. Ma c'è una dispersione lì, proprio a dirlo. C'è un scimandrone che ci divisova, è una mafia, fa carità. Ce l'avevano ritirate tutte le acque. Sarebbe stata una cosa buona, ma mi sembra che se non ne hanno voglia vero di prendere tutti, che se rimangiano invece fare le cose che servono nella vita. I soldi li hanno avuti ma non hanno fatto nulla, anzi peggiorato di più hanno lì, ecco cosa è, non hanno voglia di far nulla. Lasciano i soldi per fare dei lavori, invece se rimangiano loro, chi ruba la parte, chi ruba l'altro, un attimo, so, capito come sto? È quello, perché lì c'è la magna che ci magna, che può mangiare di più. Ma infatti, se li apri, non li dati e non hanno fatto nulla. E non vuole far nulla, eccolo già, vuole che per un po' si arrivasse la cosa. Se non si muovono i gerani, tutto era asciutto i gerani. E poi niente, i romanichi di persone, so, cazzo. Poi hanno finito niente, come fanno anche al calcio, da dire poi niente, ma niente. Chi gli hanno arrestato il poco? L'hanno arrestato. Ma continuano sempre, se non si chiamano la mafia è sempre così. La mafia è sempre degli barbea e si muove in tutti i rughi, si muove. Invece di abbussare malazzotti e non si ferma lì. Sì, vedi l'uomo da poi l'altro. E da poi se la metta lì. Infatti è così. Infatti è così. Purtroppo sono loro che non vogliono fare nulla. Ma vedrete, rimarranno sempre all'asciutto, rimarranno. Rubinetti a secco sempre. Oh, boh. era stato lì, ma è tante altre cose. Dove sta diluviando l'acqua, che sta facendo danno, e dove non le fa, quello è fatto. Perché anche se avrebbe fatto l'acqua lì, avrebbe riempito per quei bacini che hanno detto, invece è tutto secco. Ma lo sa cos'è? Che stanno pompando per gli ostaggi, capito, per l'agricoltura, e succhiano tutto quello che c'è per avere qualche cosa di buono, capito? E poi ce la mettere solo senza acqua. Ma è tutta una macchia, non ci vede dentro, vede, ecco cosa è fare dai. Guarda, continuano così, ci avranno la Sicilia che sarà tutta a secco, sarà. E molte di gente già vanno un bel. Cosa possiamo fare, so? Noi non possiamo farci niente. Stanno tutto loro in mano, capito? Infatti è così. Se non si muovono a fare che cosa, a rimettere a posto tutti i tubi. Ciao, le perdite, l'hanno fatto vedere. Quando ne aggiustano uno, ci sono altre 2 miglia che ci ho pigliato. Hanno fatto vedere il percorso dei tubazioni, tanto ma nel tubi perdendo anni che stanno facendo i staccati di acqua, cazzo, per forza non arriva anche sui punti delle intubazioni, perché sono tutte rotte e non le riparano, perché non c'erano soldi a riparare. Ah, già ce li hanno i soldi, sì. Solo che invece da aggiustare le intubazioni se ne mettono su altre cose i soldi, che dopo non interessa. Anche se si chiama riparare. E cosa possiamo fare? Purtroppo sono loro, sono, che non vedo un sacco di gente, senza far nulla. Pide poi a fare qualche cosa, a aggiustare le intubazioni, a fare, invece di lasciarli senza far nulla. Ma cazzo, quello non mi hanno voglia di stanca, che hanno l'ernia davanti, non si possono inchinare a lavorare ciò. Infatti, non ne hanno voglia, non hanno, solo andare a furare, sono buoni. E perché si guadagna di tutto, si guadagna di più, capito, a lavorare si stancano. Possono fare anche male, per carità, gente è proprio senza goji, non ha niente, manco di dai, se ne metti qualche impulla di birra, se ne grazie di dirgli, però a travagliare e vince dove pensi. A me mi pare che quelli che mettono a controllare questa gente, spero magari più delle queste degli altri, quelli che rubano a vero. Allora, non è così. Santa, non voglio di lavorare, saltami addosso. Domani forse vedevo andare tu a travagliare, faccio vedi. Ah, se ti vuoi venire, sei cavale un cane, se ti vuoi venire. Fanno quello che vogliono, capito? Avevo di questa aiuto, e cosa aiuto? Fanno tutto loro, perché loro fanno e disfanno loro. Aspetta che c'è qualcuno che voleva entrare. Avanti che vuole entrare. Cos'è? La portante di Biase Bonino, non entri. Male ti fa. Insomma lì, ha detto che non è gara ad entrare, non si può far intendere a voi. Deve essere rauco. Eventualmente si è fatto male al dito a battere i titi e per quello. Adesso si sta fregando. Deve essere che gli fa male la gola a parlare. Andate, se vuoi entrare già sei minuti. Se continua così, chiudiamo ciò e la porta e non entra più nessuno. Non c'è meno che ci vuole entrare. Se vuoi fare da famiglia. No, se sta andando a sempre a bizza. Per carità, fa il tempo, non c'è nulla che vada dritto. tutta rovescia, oh yeah. Ma e abbiamo tutti i presenti a pregarsi di Cafuro, Cafuro, però va, è un po' difficile faccio questo, a parte tu, una nazione che ci manda tutto, per cui non puoi fare quello che devono fare, capito? Capito? Anche quello, se no magari se ci ne ha stato Cafuro, allora, oh yeah, va. Ha detto che vai dormendo, a non mi interessa più di entrare. Andiamo, poi andiamo. E to, ma uscendo sto. Ciao Giovanni. Ciao, e beh. Io provo a sapere, stavo provando una rete, ma sicuramente non ci devi portare. Sta andando? Sì, certo. Comunque, ma sì, che sta uscendo, fastidio sta. E beh. Dirice le serie. Ehi, ehi, ciao a tutti, ciao Giovanni, buonasera a tutti. Ehi, è finita, è prima da qua, va Giovanni. Lo sai com'è, tutto lì. Vabbè, tutto ok? Ah, non ci facciamo la pensare, va. Se ne abbiamo, già ne mangiamo, se non ci facciamo due di sabato. Dai, faccio questo, ma che ci sarò già andato fra, puoi tornare ancora. Ok, la guai. Sempre fuori Giovanni, già lo sai che io scopo che niente qua adesso, non capisco, di tanto un viaggio del futuro, tutto lì. E beh, per il resto sta a posto, com'è? Pare tutto a posto, ma per bada così no, pare tutto a posto. Ma speriamo. Già andiamo bene, piano piano. Dai, meglio così. Quello che vi ascoltate bene nel radio, sì, va bene. A voglia, ci andate. Chiara, limpida, recco a. Perché stavo provando questa radio, cioè avevo di tempo ferma. Perché dalla macchina non avevo tolto tutto, ho capito Giovanni. Ma è facile, ma è facile, due o tre mesi che mi ha entrato, no? Un affare del genere, sì. Infatti adesso mi ha acceso, stava funzionando ancora. Ho visto che già vanno, adesso provo anche gli altri. Ma è avvanto, già vanno, dai. La roba secca dura sempre, magari i nuovi si spazzano, ma la roba secca cammina sempre, diglielo a tu. Infatti la roba vecchia cammina sempre. Chi di nuovi è chi sa pagare due fei? Ma sto utilizzando un superstar, un 3009, dai. Buono. Quello 200 canali? K, quello cromato, il vecchio superstar, 3009. Sì, già anda bene, cioè è buono. Io lo credo che è buono. È quello con lo svizzero, è nuovo qua. Cappa Giovanni, sì, ma è nuovo, è questo, nuovo. Cappa, è nuovo, ma nuovo, e per forse si è chiamato in città adesso. E c'ha i canali 1, 2, 3, 4 bande o 5 bande, vanno più che tu, mi so caruccio. Vabbè, c'è che camminiamo sempre, dai, la roba secca ha sempre fissato per i gufi, che ogni tanto ce ne uno. Ecco, io ne ho preso uno nuovo, il 2009, e c'è il quadretto, no? Il quadretto da 1 a 10, con la fila, quando abbassa la portante sparisce, la bollo e ritorna. Non servono a niente queste radio che stanno facendo adesso, non ne fanno più radio così. E allora, ne ho due di questi qua, l'altro che c'è la striscia da 1 a 10 a 30, rimane la linea, mentre invece questo va basso la portante, i quadretti fanno, allora con la striscia da 1 a 10 a 30 sparisce. Ma non è c'è poca alimentazione. Anche se il 5.500 dice la qualità, ma se anche il 5.500 fa questo lavoro, e sono tutte e due nuovi adesso, un bel testo, non dici? Ma cosa ti si abbassa la luce o sparisce il display? Non sono i quadretti per i segnali, si è appartamento controllista, sono i quadretti, sono sotto i quadretti che la striscia da 1 a 30 quando abbassa la portata, secondo me basta, l'importante i quadretti fanno, però la crisi da una stretta si seguono, capito? Ho capito, sì. Ma stavo pensando che non c'è l'alimentazione lì. Li hanno messo tutto male, ragazzi. Perché io sono due figli, il più vecchio sono perfettamente. Questo nuovo è fatto così, sa che 5.000 cifre fatto di peso. Da vicente che vanno bene, anche se mancano, capisce quello triste quando parlo, e se ne sei, l'importante è il potere. Ho capito, bisogna vederlo domani. No, io sto utilizzando adesso lì, il superstar, quello tutto cromato, già lo conosci qual è. Adesso voglio provare anche l'altro, perché questo era aspetto un mese di tempo, era 3 mesi fermo. Adesso voglio provare l'altro se funziona ancora. Ma io pure ringrazio adesso tu e grazie per che ci sono. Io lo so. Infatti. No, mi mancano con le pacchette lì. No. Meglio invece che i nubi. Io sono un naggio di bigliato, dici. Non te ne rampo di nappa, a mezz'ora che devo buttarvi. Visto che stava facendo. Ah, ieri stavo guardando Megalocco di nuovo. Anche se 7.009 era tutti San Mio. E io sono per 360, dice. E lui è Megalocco di voi, 220. Tanto ce li hanno? E se ne contava. Ma per dire no. Ma la gente lo prende da me, perché per me che magari qua no, ma è tutto morto, magari forse la strada c'è ancora e se si chiama il vento, però nella droga ha passato dei tristi già spero, dai, questo è pure le dico quanto costano quella storia di 5.000 euro, no? Allora bra, guarda questo Giovanni se va bene, 1, 2, 3, questo è il Magnum. Va bene, io a Puglia, va benissimo, non per 3, se più, non fa di più largo, per cui la radio è bella piena, vai. Anzi, per la piena era quella di prima, adesso questo sono il tuo cuore. Vabbè, questo ce l'avevo fermo da un bel lo stesso, Giovanni. Comunque va bene. Ah, bomba, però adesso è bella, pulita, tranquilla. Sì, io lo so. Sì, pulita, tranquilla. A voglia, c'è forte anche. E questo ce l'avevo fermo lo stesso, Giovanni. Ma fa anche nessuno, poi lo tiri, è chiaro che... io 3 mesi che mancavi, per cui quelli non muoiono mai, dai, come se ne insegno io i 3 mesi con i 3 mesi, è una canonata ai sapere di qualche ricordo fa. Io c'ho il superstar i 3 mesi lo stesso. E funziona benissimo, nuovo, ma non le fanno più radio come acquisti, Giovanni, adesso fanno mandezza e buh. Perché a far soldi e basta, però non pensano che se ne frega la morte, a fare i soldi e basta, come tutte le altre cose, questa roba buona non le fa più di più, adesso stando... prendi, quando si guarda la devi buttare e comprarti un altro, vale la pena, aggiustare non vale più la pena. Ma infatti, non la fanno più appunto per quello. Oramai roba buona non la fanno più. Mondezza e buh, tutta roba. Ma quelle radio che stanno facendo adesso io ho visto il circuito stampato. Fine, cioè quelli quando si bruciano ce li devi buttare. Ma che niente, ma che tu per i tuoi circuiti e basta. Non c'è niente, perché prima il circuito era tutto pieno di maledizioni. Ma non vedo niente, fino a 2-3 cinghiette, larghe magari 2 dita, e tutto lì sono. Allora allora io ho un Sommercamp, un 23 canali, che tu devi mettere i due di quelli che c'è tu per fare il peso di quello. Vai, fatto. Comunque se vedi 7.000 bombe, è bello quell'apparecchio, sta tutto, è bello apparecchio, sembra un apparecchio professionale, penso che l'ha visto, già lo conosci, 7.000 bombe. Cappagatto, sì, lo conosco, Giamari. Ed è un bel apparecchio, secondo me, un bello, sta tutto, è un bel apparecchio. 70 watt, il disco per cui sta tutto, e quello sembra abbastanza buono, va, ma qualche anno li hanno fatti il capparecchio, l'hai visto da anni fa. Che si fatti una va, io li ho visti quei baracchini che stanno facendo adesso, ma non servono a niente, non c'hanno niente dentro, non c'è componentistica, capito? Io ne avevo uno 2009, era nuovo stesso, come scaldava, usciva tra tutto slabbrato, sembrava il panda, e non si riusciva a capire dove era, poi il salto mancava, a Calenzio e c'era la parte di qua, c'era il finale della recessione che era partito. E comunque dico, l'hai sistemato, sì? Sì, lo so, io, ma Alessio me l'ha sistemato. Sì, certo. È un tecnico, ce l'aveva due mesi, che mi funzionava bene, e la data funziona. E fatto qua, l'attacco, ed era peggio di prima. Cioè, addirittura, oi. Prova a ridare. Allora, Talenzio è adesso riuscita a trovare, non è l'originale, il finale originale della recensione. No, l'ha messo un altro e sta funzionando perfettamente. Ah, ho capito, il KIA. Non so come si chiama, è il finale della recensione. India 2003. Ho capito, sì. Quello che c'ha il stereoclario, ti ricordi il stereoclario? Ciao, sì, già me lo ricordo. In pratica Giovanni quell'apparecchio gli si è bruciato perché quando gli hanno lavato non gli hanno messo il dissipatore l'isolamento che ci vuole dove c'è la vite, mancava quello e anche quella specie di plastica che si mette per non toccare lo chassis, capito? Quindi in pratica la vite toccava da ben cotto il finale, quindi scaldava, e meno male sono riuscito a recuperarne uno di quei finali lì per sbaglio da un portatile che c'avevo io di 15 anni fa, figurati tu. E poi da poco l'ho trovato uno in bustina, gliel'ho detto a Giovania, ce l'ho conservato, detto, quando lo vuoi ti troverò quel finale, poi ce l'hai di riserva. E mi dirà, non mi dite nuovo in bustina, perché Sassari, sono andato alla GBC, Fusaro, no, non c'è più niente, non ti dico, componentistica non ve ne è. Infatti stavo dicendo che questi praticamente questa per che fanno adesso non c'è componentistica, non c'è niente, Antonè, capito? Già lo so. Come sto uscendo con questa delta l'Ecomaster? Allora a me mi sta arrivando a 9.25 radio super 5, va bene, ma non so in che condizione sto arrivando a te, perché io avevo da parecchi 3 mesi che non li stavo usando, capito? Ecco, questo è un microfono, sa del caro generato, quello ecco, quello nero è l'Ecco Master, per esattamente sto usando quello, non so se c'è l'Ecco sotto. Ciao anche a te, salutoni anche a te, me l'hai ascoltato e ben sentito. Ciao Antone, ma te di domenica? Già lo so, di domenica 13, già lo so, speriamo che non scenda l'aria naturalmente, che faccio una giornata bella, che ci sia un pochino di caldo, e così siamo a posto, perché se piove penso che non facciamo niente. Preparati Antone, preparati, metti pure a far leggere, almeno fai un po' di strada qui. Sono quanti anni è che lo faccio tu quella passeggiata? Sarà penso 3-4 anni, una cosa del genere. Sì, vedo. Guarda, già sono abituati a camminare. No, quanti chilometri sono? Ah, sarà in tutto già un chilometro e mezzo. Sì, ce la fai tranquillo, là. Va bene, io le approfitto un po', dai, chiudo. Ci aspettiamo nel frutto, proprio di me. Ciao Antonello e ciao Franco. Ciao, non c'è di più, vai. Ci sentiamo alle prossime. Questa è la dai, riproduio. Ciao Giovanni, buona carica con tutto e buona cena. Saluto al coreano anche da parte mia. Ok, riprendi tu. Ciao Giovanni, stammi bene, arrivederci alle prossime, ok. Avanti Antonello. Ciao Giovanni, ci sentiamo, stammi bene, comunque di te. Molto. Allora, andiamo un po'. Ora. Beh, è costo. Ecco, si sente, sì. Sì, è ci sente, Antonio. Ho messo qua, 140 in questo microfono. Con questa antenna funziona bene. Con la mantova non ce l'ha verso, Si metteva a fischiare, sembrava un treno. Poi già ci ha pensato il fulmine a farmi il lavoro del tutto, che me l'ha sciolta. L'ha proprio sciolta, mi ha sciolto quella. Il fulmine, due televisori, mi ha preso in pieno e il termico delle... Capito? Due vetri di casa. Ehi, ecco che altro mi stai pilotando adesso. Con la Sirio Energy 5 ottavi, modello vecchio, quella che ha la gabbia antistatica sopra, quel cerchio grosso. Ah, ho capito, sì. Lavora bene. Una e tre stazionarie e poi pilota l'apparecchio con una bellezza. E vabbè, chi sa gli andava? Ho pagato 60 euro l'antenna. Figurati, la seconda mano. Se vai a comprare la Torino, mi ha sparato 100 euro. E detto, tu sei impazzito, gli ho detto. Ma la cosa ti vita, gli ho detto, vai. Ma io sto utilizzando sempre la Game Master, non mi ha dato mai problemi, l'ho piazzata bene, va benissimo, niente stazionaria non è, ed è perfetta. Già va bene, voglia. Meglio niente di me. La mantova è troppo grossa, pesante, eccetera, eccetera, poi era anche anzianotta, la verità, perché gli anni su si li ha fatti, la mantova giù. Si usciva bene i primi periodi, dopodiché ho cominciato a darmi problemi, finché non me l'ha pegata il fulmine dove c'è la bobina, me l'ha beccata in pieno lì, lo stilo non me l'ha tagliato, la legge non è rimasta vabbè, ma ha solamente sciolto la carica che c'è all'interno, capito? Me l'ha sciolta come se ce l'avesse fatta con la saldatrice. Ho capito, vabbè. Io questa qua da quando l'ho piazzata non gli ho fatto più niente, ho detto che funzionava sempre bene, non mi sta dando problemi. Ok, dai, riprendi tu. Quando ho fatto vera cosa, non mi ha fastidio per nulla. Adesso lì che ci avevi qualche cosa che attirava i fulmini, eccolo già, c'era un travia ducata. Ma l'ho beccata in pieno, tu immaginati che sotto l'antenna della... sotto la mantova in pratica, rizzata di... neanche di un metro, c'era l'antenna TV. Ha beccato il cavo, il fulmine della, il cavo della TV, l'ha spaccato in due e l'ha bruciato a destra e a sinistra. Poi il fulmine è entrato in casa dalle Regi 213, me l'ha fatto completamente rosso di colore, le Regi 213, c'era presente. E invece con il cavo, la TV me l'ha proprio sciolta. L'ingresso dell'attacco dell'antenna mi ha fatto un buco nel dove c'è il video dietro, dove c'era la parte metallica, dove c'è l'alimentazione della 220. Mi ha fatto un buco, cazzo, che è una cosa allucinante. Si è spaventato un bellissimo ora, poi mi sono spaventato anche io. E la mattina col cuore a 120 che avevo, poi mi sono allagato il terrazzo, sono dovuto uscire fuori con la col coso per poter, e ho dovuto buttare tutta l'acqua giù, perché sennò mi si allagava la casa. Brutti sono i fumi. Ma entra, se non ci avevi qualche cosa di data per scaricare. È entrato e ne ha caricato il Natale dove visore da caricare. È stato nel tubo, sotto il tubo c'era il tavolo della TV. E me l'ha crappato. E poi deve avere il capello anche lì, non so, si è pigliato la tegola, fatto sa che hanno bruciato tutti e due i televisori, e più il termico che c'è all'interno di casa. Me l'ha fatto scattare e usciva il fumo da lì, usciva. Infatti ho chiamato a Daniele, tu vieni immediatamente da casa che c'è uscito il fumo, e gli ho detto mi ha crappato il termico e sta uscendo fumo. Manco le tocco, gli ho detto, sai che ci rimango in mano. Che mi rimane in mano. Invece non ha trovato dopo la massa dove scaricare, ha scaricato lì, e sui televisori. Purtroppo è così, hanno una per massa, ha fatto un danno. Stasera qua non c'è, ho controllato dove c'è il termico. Allora messo il termico e il cavo della massatella e da uno. Ma cosa agganciato hanno alla piazzina, di sotto si aggancia. Nulla, gli hanno messo solo quella roba lì e basta. Ma la madre io non ho agganciato il filo già del verde al tubo dell'acqua, se no me ci sarei rimasto paralizzato aprendo il rubinetto. Ma si agganciano mai lì, i tubi dell'acqua non si attaccano mai. Ma è meglio fare un coso con un coso di una pianta che aveva fatto più bene. No, già me lo costruisco adesso, l'altra volta mi sembrava visto che avevo costruito uno con una candela di macchina, una cosa del genere, per scaricava direttamente nel retro della candela della macchina. Allora, vabbè dai, ne approfitto e vi saluto, ciao Ottore, ciao Antonello, dai che sono davanti al computer, sto facendo alcune cosette, ce la riascoltare in prossima. Ehi, ciao Fra, ci sentiamo, stavi bene, buon tutto, buona cena, buonasera a tutti. Ciao. Ah, però sto scendo male, a scariche ti sto ascoltando, no? Strano. A scariche sono adesso. Adesso no, ma poco fa sta uscendo male. Sì, magari ho toccato il coso del microfono. Adesso già va bene. Bello, carriera, gara, frate, tutto sotto controllo qua. Poi vamo la rimone, senti con la vita da che è. Se dovevamo uscire, adesso siamo usciti. Servizio? Io ero più contento perché stavo facendo cosa stamattina, poi stasera c'era alcune cose da sbrigarmi. E da me lui diceva già vai, se prendeva. Io non posso uscire dopo le 9, eppure la sera adesso no, perché sto lavorando, come esco dal panificio poi vado a fare altro lavoro. Però prima è davvero lui, è per piacere, ma così, andava bene, è dovuto così, anche io sono così, capito, non è che non è così, è per, secondo te, se, quando capita che posso uscire di sabato, magari vedi, dopo le 9, se mi dicono che possiamo uscire, mi porto il cambio, mi cambio il panificio, non c'è problema. Ma infatti che è uscito. Ma c'era Tore, la Tore chi ha fatto? No, cioè sono qua e mi sono allontanato. Comunque, vi saluto a chi siamo da Catanzaro, menzione e prende insieme. Ci risentiamo fra le prossime. Ciao Luca, ciao Antonello, stammi bene. Ci risentiamo fra le prossime, ok, ciao. Statemi bene. Dai, questo è per noi. Ciao te, dai. Ma la carica buon tutto e ce la di ascoltare i prossimi. Vai Luca. Ciao te, alla prossima, buona cena. Ciao te, ci sentiamo, buona cena, alla prossima. Dovevi vedere, anzi, sentire Luca, domenica sera alle 3, no, alle 3 e mezza 4 forse siamo stati. C'erano gli sfigurati qui al quadrato e uno dice incantato di portatile col box ed era da far vedere perché non riuscivano a parlare uno con l'altro. Poi sì.